Adesso tu parli, cioè, tu fai la tua introduzione. Sì, forse possiamo aspettare un istante. No, cominciamo. Ecco, allora un minuto. Qui ho una versione tedesca della mia breve introduzione. Ecco. Non ho la versione italiana nel senso che parlo italiano e poi è una prima stesura che poi per la stampa potrà essere modificata. Ecco, quindi ho pensato di dare una versione tedesca agli amici per facilitare. Io metto qui chi desidera. Ancora uno per. Ecco, per il professor Vanuska. No, per Johannes. Per il professor Vanuska, anche un altro. Io ti capisco. Sì. Grazie, ce l'hanno anche. Grazie, sì, bravo. Allora, incominciamo. E qui finisco la parte del segretario per assumere... La parte del coordinatore. Del coordinatore, ecco. Credo che nella divisione dei ruoli, che quasi spontaneamente si stabilisce in segnali di questo tipo, quando funzionano meno, perché non tutti poi funzionano, e dipende da tutti i partecipanti, funzionamento. Tocchi a me semplicemente il compito di spiegare il perché della scelta del tema proposto e di analizzare e chiarire, se possibile, i termini in cui il tema stesso è stato proposto nel titolo. Quindi le strutture ecclesiastiche prima della riforma. In italiano abbiamo messo l'aggettivo protestante per evitare equivoci, ma è più o meno inutile se la riforma è con la R maiuscola e probabilmente appunto lo toglieremo poi negli atti, eccetera. Tocca a me, penso, questo compito per un motivo positivo e uno negativo. Quanto al primo, il motivo positivo è perché appunto nella mia doppia veste di membro del comitato scientifico e di coordinatore debbo come organizzatore, insomma, ecco, presentare il perché della scelta di questo tipo. Quanto al secondo motivo, il motivo, diciamo, negativo, è che di fronte alle competenze qui riunite mi sento incapace di entrare all'interno della problematica ed è quindi bene che io mi fermi sulla soglia, appunto, con una introduzione, con una Einleitung, e non entri dentro, ma presentando, appunto, come vedi il problema. È ben vero che mi sono interessato alla storia del papato anche per il periodo qui considerato, ma i miei studi sono di epoca tridentina e post-tridentina e non hanno riguardato, diciamo così, nel loro complesso, se non in modo secondario, il periodo che viene qui esaminato. Ed è anche vero che la presenza ingombrante, dico ingombrante nel senso fisico, del papato nella vita della Chiesa italiana può portare a trascurare aspetti e problemi che qui invece vorremmo messi in primo piano. Cioè, voglio dire che, dovendo parlare, dal mio punto di vista, sarei stato portato per i miei studi a polarizzare l'attenzione sul papato per la sua importanza nella storia italiana di questo secolo, mentre invece uno degli scopi del seminario, adesso poi ne parlerò più, dovrebbe essere invece quello di parlare della Chiesa italiana o delle Chiese italiane, per meglio dire. E quindi c'è il pericolo appunto di assolutizzare, di lasciarsi egemonizzare da questa presenza del papato. Per giustificare la scelta del tema ci si potrebbe genericamente limitare ad affermare che il periodo di confine tra il tardo medioevo e l'età moderna, quello che vogliamo esaminare, alla vigilia della riforma, è un terreno trascurato dagli storici della Chiesa degli ultimi decenni, parlando così in modo generale, particolarmente per quanto riguarda gli aspetti istituzionali. Sono stati fatti studi sulla pietà popolare, su altre cose, ma per gli aspetti istituzionali notiamo una carenza abbastanza pronunciata di studi. E quindi è importante richiamare l'attenzione su di esso, perché appunto abbiamo forti studi sull'età classica cosiddetta del diritto canonico medievale, tutto, abbiamo forti studi sul periodo trentino, ma mi sembra che dalla fine del movimento conciliare al tridentino ci sia un avvallamento degli interessi storiografici. E quindi è importante. Cercando però di andare oltre questa affermazione così generica e analizzando il titolo proposto, parola per parola, si possono forse far emergere alcune tesi sottostanti da sottoporre alla nostra discussione, non per proporre ad essa guide o binari rigidi, ma per dilatarla. Quindi quello che verrò dicendo, lo verrò dicendo per porre problemi, ecco, non per dare o per... pretendere di avere soluzioni a questi problemi. Strutture ecclesiastiche, ecco la scelta di queste parole. Non è nostra intenzione sviare il discorso su dibattiti metodologici che assorbono ormai fiumi di inchiostro. Occorre però spiegare la scelta di questi termini, perché strutture ecclesiastiche e non ad esempio vita della Chiesa, perché strutture e non istituzioni ecclesiastiche. Ecco, porre almeno questo problema dell'uso di certi termini. Ecco, noi abbiamo scelto il termine struttura dopo una discussione anche in comitato scientifico, insomma, rispetto ad altri termini, eccetera. Perché? Si può dire molto sinteticamente che di fronte alla tradizionale equivalenza tra la storia della Chiesa e la storia dell'organizzazione gerarchica, nella storiografia tradizionale di vecchio stampo, la rivendicazione contrapposta di una storia della religiosità popolare ci appare altrettanto insufficiente e monca, e a lungo andare, a mio avviso, produce poveri risultati o risultati inferiori alle aspettative. Ciò che ci interessa è sempre più il meccanismo di interazione tra l'uomo che studiamo e che siamo e l'insieme delle stratificazioni, delle sedimentazioni storiche in cui egli si trova a operare e che a sua volta trasforma. Nessuna contrapposizione quindi, ma la ricerca più in profondità di una vita quotidiana che al quotidiano non si ferma perché è agganciata ai movimenti di lunga durata, secondo l'espressione brodelliana ben nota. Con tutte le possibilità di equivoco, ci è parso lo stesso opportuno scegliere il termine strutture, ovviando ai più facili sbandamenti con una precisa definizione cronologica, cioè appunto ponendo il nostro accento sugli anni del secondo 400 e i primi due decenni del 500, per indicare nel modo più aperto questa esigenza di ricerca sull'edificio religioso in cui l'uomo viveva tra il secondo 400 e i primi anni del 500. Il termine istituzioni ci è parso troppo ristretto, essendo tradizionalmente riservato agli aspetti organizzativi, compresi certo nel nostro interesse, non certo esclusi. Ecco. Ma dai termini istituzioni si potrebbe, ecco, ritenere escluso certi aspetti come la prassi liturgica, la prassi sacramentale, il problema dei modelli di comportamento, dei modelli di santità, delle forme di disciplinamento sociale e religioso, il loro insieme, tutti aspetti invece che sono al centro della nostra curiosità e che appunto probabilmente sotto il vocabolo istituzioni sarebbero stati messi in margine o addirittura emarginati. Ricordo il titolo della prolusione del professor Prosdocimi che abbiamo qui e che voglio ringraziare particolarmente per questa sua presenza da noi alla settimana di studio da Mendola del 71, no? Era quella in cui hai fatto la prolusione a questo problema della il titolo della prolusione era per la storia della cristianità medievale in quanto istituzione. Ecco, tu hai allargato il concetto, diciamo, hai dilatato il concetto di istituzione fino a, diciamo così, comprendere l'intera cristianità, insomma, ecco, come diceva il titolo, per la storia della cristianità medievale in quanto istituzione. nella quale questi problemi sono già stati affrontati con grandi panorami per i secoli precedenti. Tutta l'azione della Mendola, anche nei giorni scorsi, è rapportata a secoli antecedenti, diciamo, grosso modo, no? undicesimo, dodicesimo, insomma, è questo. Mentre noi invece cerchiamo di proiettarci più tardi. Questa dilatazione dell'istituzione come comprensiva di tutto l'ordinamento della cristianità, di tutto l'universo della cristianità, ci sembra in realtà contenere anche qualche pericolo, se poi l'attenzione viene ricondotta quasi unicamente ai problemi teoretici e giuridici dell'organizzazione dei vertici del potere. Come molto spesso capita, credo, l'aspetto istituzionale può anche diventare prevalente monopolizzatore, egemone, in modo da ritornare qualche volta a punti vicini a quelli della vecchia storia. Certo è che l'incertezza terminologica è molto grande e ci deve spingere, a mio avviso, al rifiuto di ogni schema e alla massima empiria, quindi a prendere ogni parola con le molle. Per fare un esempio di quanto la terminologia sia, direi, ambigua e secondo me non ancora assolutamente chiara, quindi quanto sia necessario usare questi termini sempre in modo relativo e empirico, si può indicare forse i due titoli dati dal Bossi nei suoi studi sulla messa. Adesso è stato pubblicato, proprio l'ho visto l'altro giorno, nella rivista Past and Present, il titolo in inglese è The Mass as Social Institution, la messa come istituzione sociale, mentre il titolo francese con cui era stato edito in Annales due anni fa era E sede sociografie della messa. Quindi abbiamo lo stesso saggio con l'uso di terminologie molto diverse tra di loro, a mio avviso, insomma, e che in qualche modo implicano ancora tra le diverse lingue e credo all'interno di ogni lingua stessa problemi di chiarimenti non ancora avvenuti. Si tratta probabilmente di riprendere la lezione metodologica di Gabriel Lebras, non solo quella dei prolegomen, ma anche forse ancor più dell'opera parsa postuma L'Église et le Village, un'opera a cui sono abbastanza affezionato personalmente, insomma, è come impostazione forse più che non ai prolegomen, di capire le ragioni delle difficoltà che essa ha incontrato nel suo concretarsi, sia nell'opera di Equipe, pensiamo al grande progetto rimasto incompiuto e spesso insoddisfacente della Histoire du droit des institutions de l'Église à Notre-Dame. Forse voi sapete che lo stesso Lebras, per esempio, aveva, almeno lo dice Margiotto Broglio nella introduzione alla traduzione italiana, aveva delle riserve su alcuni volumi della stessa opera che lui dirigeva, insomma, per l'Age Classique, per quanto riguarda il periodo medievale. E io credo effettivamente che questa opera è così, che è anche incompleta, che si è fermata, no? E che è appunto secondo me insoddisfacente in alcuni volumi come quello che riguarda la nostra epoca di Aurillac, sull'età post-classica, si è fermato solo al primo tomo questo volume, mentre avrebbe dovuto comprendere, mi pare, 3 o 4 tomi, e è, credo, insoddisfacente, abbastanza pesantemente. Ma appunto non è senza significato proprio questi ostacoli che il piano di Lebras, di una storia delle istituzioni della cristianità, ha trovato sul suo cammino, e anche nelle ricerche particolari. Sembra che gli elementi su cui Lebras contava per la sua sintesi, che globalmente possiamo dire il diritto canonico, le istituzioni e la sociologia religiosa, questi erano i tre pilastri su cui Lebras cercava di costruire questa sintesi sull'organismo, l'organismo chiesa, l'organismo cristianità. Sembra che questi elementi si siano di nuovo decomposti dopo la sua morte particolarmente forse nella storiografia italiana, che qui è un problema che pongo e che possiamo discutere, per ritornare molto spesso ad una povertà monodisciplinare ancora più sterile di quella precedente, forse. Una storia del diritto canonico sterile e tecnica, abbiamo, chiusa in se stessa quasi sempre, insomma. Una storia sociologica che ignora le realtà sacramentali e liturgiche, eccetera, eccetera. Cioè, io credo che questa sintesi sia ancora da perseguire, sia ancora davanti a noi, insomma, ecco, come sforzo che dobbiamo fare. Forse occorre prendere atto che i tempi non sono ancora maturi per le grandi sintesi e che occorre invece ancora un paziente lavoro per collegare nello scavo concreto della ricerca i vari fili ora ingarbugliati, senza provocare cortocircuiti. Al costo di scandalizzare, io propongo metodologicamente, quasi lo dico paradossalmente, ma insomma non troppo, ecco, un ritorno alla una lettura dell'ancienne Nouvelle Discipline de l'Église, edita da Louis Thomassin tra il 1678 e il 1679, un po' vecchiotta, ecco. Ma secondo me, ecco, questa ancienne Nouvelle Discipline de l'Église è un'opera, è una trama ancora valida, almeno per innestare proprio i problemi di questo rapporto tra istituzioni e vita e disciplina, se vogliamo dire, usando proprio della Chiesa. Naturalmente, questo non voglio dire, insomma, bisogna stare tutti i successivi apporti della filologia e della nostra nuova sensibilità, cioè è un richiamo che, ripeto, è più paradossale che altro, ma personalmente devo dire che quando incontro qualche problema inerente alle istituzioni ecclesiastiche, insomma, ecco, la lettura del Thomassin è ancora una specie di base di partenza. Si tratta di uno salto indietro di alcuni secoli, ma che permette forse di superare più agevolmente la dicotomia schizofrenica che oggi impera ancora tra una storia del diritto canonico come storia di norme astratte e un sociologismo senza storia. È ovvio che il discorso andrebbe approfondito ed allargato in rapporto alla storia della teologia, della spiritualità, della pietà, eccetera. Ma ci basta qui averlo accennato. Aggiungo soltanto che per l'avvio di questo ripensamento ci sembra particolarmente utile un avvicinamento e un confronto delle storiografie tedesche e italiane. Cioè, uno dei motivi per cui questo seminario può essere utile, io credo che proprio a questo scopo di questo chiarimento, diciamo così, sul problema delle strutture, io credo che storiografia italiana e storiografia tedesca, proprio in rapporto anche a un certo tipo di egemonia che è venuto invece dalla Francia, possa essere utile per un certo riequilibrio complessivo della problematica. Questo per le due parole, diciamo così, strutture ecclesiastiche. E poi cosa c'è? La periodizzazione, prima della riforma. Si ragionava ieri sera abbastanza anche così strano che gli storici tedeschi presenti a questo seminario sono quasi tutti medievisti, gli storici italiani sono invece quasi tutti modernisti, è senza senso questa cosa o ha un senso? Ha un senso perché... cioè c'è una cronologia diversa per i due paesi. Il Medioevo finisce prima in Germania, prima in Italia prima e poi in Germania. Cioè, c'è già un problema proprio che è nato col concetto del rinascimento. E facendo un seminario di questo tipo si vede già direi automaticamente, senza volontà, perché si è preso, diciamo così, si sono invitati gli amici, gli specialisti, ma è venuto fuori in questo modo, insomma. Sì. E quindi, ma questo è, diciamo così, interpopula ieri sera, una osservazione che veniva ieri sera. e che può essere poi a tutti i suoi limiti, perché poi ci sono le storie verticali, se Dio vuole, che tagliano queste cronologie e impediscono appunto la rigidità di questi schemi di divisioni cronologiche tra Medioevo e età moderna. Perché il nostro tema sta proprio a caso. Ho già accennato prima all'importanza di una definizione cronologica precisa che conserva le strutture, al problema delle strutture ecclesiastiche che vogliamo indagare, il loro spessore storico concreto, perché sennò la storia di lunga durata finisce nella non storia, a mio avviso, e questo è un pericolo costante, insomma, che abbiamo. Il collegamento con la riforma è utile e necessario, con queste parole prima della riforma, per indicare un periodo che grosso modo va dalla metà del 400, cioè dalla fine della crisi conciliarista, sostanzialmente, dalla ripresa del papato con Eugenio IV, Niccolo V, eccetera, ai primi due decenni del 500. Ecco, questo è il periodo che vogliamo indicare. Ma l'agganciamento con la riforma, che nel titolo è in queste parole prima della riforma, vorrei dire essere... ma il mio parere è che è un agganciamento cronologico e non tematico. Cosa voglio dire con queste cose? Che non vogliamo, cioè, andare a caccia di pre-riforme, di precursori, e nemmeno di abusi, e nemmeno di cause della riforma. Cioè che la nostra ricerca non deve essere egemonizzata dalla presenza della riforma. Ecco, l'agganciamento è solo cronologico e non tematico. Perché per me è importante? Insomma, ecco. Certo, a noi interessa capire come vivevano la realtà ecclesiale in Italia e in Germania gli uomini della generazione precedente Lutero e quelli che egli vedeva intorno a sé nel periodo della sua infanzia, della sua formazione e della sua giovinezza. Questo è il nostro interesse, insomma, evidentemente. E qui apro la parentesi per dire che questo è l'anno luterano e che nel scegliere questo seminario è stato presente il centenario della nascita di Lutero 1483-1983. Ecco, è stato presente però decidendo di non fare celebrazioni dirette luterane, ma di cercare di analizzare il mondo in cui è cresciuto, insomma, all'interno delle strutture ecclesiastiche, monastiche, eccetera, in cui lui si è trovato a vivere. E quindi non abbiamo dimenticato, organizzando questo seminario, questo tipo di centenari, ma l'abbiamo, diciamo così, preso a nostro modo. Non si vuole negare la centralità della riforma, ma si vuole cercare di rendere meno ingombrante la sua presenza, tentare di far sì che il suo peso non deformi le nostre lenti di storici, costringendoci a vedere tutta la realtà come dal buco di una serratura. Ecco. Dico, è una mia opinione e la pongo qui con tutta la carica di problemi che questa comporta, ecco, ma secondo me la storiografia è stata troppo dominata dalla realtà della riforma e quindi questo ha portato a vedere il periodo precedente soltanto come un periodo di incubazione e mai per la realtà stessa che questo periodo rappresentare o troppo poco spesso. Ritengo infatti non produttivo partire dai concetti di riforma o abusi, concetti che pur sono stati tanti importanti per superare le vecchie polemiche confessionali. Cioè, non nego che tutta una storiografia abbia fatto passi da gigante, da Febbre a Lorz, allo stesso Iedine, eccetera, in questo scavo delle pre-riforme, diciamo, al plurale, insomma, di questi movimenti e sul problema degli abusi, Lorz in particolare per il settore ideologico, diciamo Iedin più sensibile agli aspetti istituzionali di questo periodo. Quindi questi studi hanno tutti avuto un loro significato, io credo estremamente importante, per superamento della vecchia storiografia confessionale. ma dovrebbero essere, credo, ora ricondotti entro uno sforzo più profondo per cogliere il divenire delle strutture nel loro complesso organico e nella loro vita propria. Come notava Congar alcuni decenni or sono, con i limiti di quando questa cosa fu scritta nei primi anni 50, ma nel famoso libro breve Fosse Reformo dall'Eglise, analizzando in alcune pagine che per conto mio rimangono molto belle, la composizione tra reformatio e deformatio nella Chiesa medievale, analizzando il rapporto tra il piano delle realtà immutabili e il piano invece degli abusi, delle corruzioni, egli notava che appunto esiste tra l'uno e l'altro il piano delle strutture storiche concrete, esercizio della potestà pontificia, diceva lui, forme liturgiche, eccetera. Lui usava questo termine delle strutture storiche concrete per identificare questo piano intermedio, insomma, ecco, che è quello a cui noi ci indirizziamo. Strutture strettamente intrecciate con quelle politiche e sociali, tanto da entrare in crisi con queste. Da svilupparsi, non solo da entrare in crisi, appunto, nel senso di crisi come trasformazione, insomma. Se ci mettiamo realmente da questo punto di vista, che è l'unico possibile per uno storico delle istituzioni, mi pare si possa anche tentare di riequilibrare la periodizzazione tradizionale, vedendo nella riforma non un punto di partenza, un'esplosione rivoluzionaria contro la decrepita chiesa medievale corrotta dagli abusi, esplosione a cui si affianca o segue la soluzione riformista del Concilio di Trento e della Riforma Cattolica, o controriforma che dir si voglia, cioè che appunto di fronte alla Chiesa medievale piena di decrepita, piena di buia, eccetera, sia esplosa la rivoluzione della Riforma e poi appunto una soluzione riformista, quella data dal Concilio di Trento. Dico che forse è da rivedere questo e di cercare di vedere invece la riforma come punto centrale di un processo che la precede e che la seguirà con il consolidarsi del processo di confessionalizzazione religiosa. Cioè, per rifarmi la mia periodizzazione, è il punto cruciale, sì o no, ecco, ma io che pongo in discussione è se alla metà del 400 non ci troviamo di fronte con la fine della crisi conciliarista e la rinascita della leadership del papato del secondo 400 e lo sviluppo dello Stato moderno dal punto di vista politico, eccetera, eccetera, non ci troviamo di fronte all'apertura di un processo che poi vedrà nella riforma protestante, nelle riforme cattoliche, eccetera, tipi di soluzione a problemi strutturali che però erano precedenti ed avevano la loro organicità, la loro logica di sviluppo, se mi recito, non in senso evoluzionistico, parlare in senso deterministico, ma che erano innestati nel periodo precedente. Questo è il problema forse principale che io pongo alla vostra discussione, insomma, ecco. A dire il vero, anche Le Bras, nei suoi prolegomene che ho ricordato prima, questo suo volume di metodologia che doveva essere poi la base di questa Histoire des institutions de l'Église à l'Occident, in innumerevoli volumi di cui ho parlato prima, anche Le Bras, in questa sua introduzione, fa partire l'età moderna dal 400, dalla fine della crisi conciliarista, anche lì, ma a mio avviso egli ci dà del secondo 400 un'immagine dominata dal disfacimento e dalla crisi del vecchio ordine, cioè un'immagine di decadenza, di decomposizione rispetto all'età classica che invece Le Bras vedeva come l'apice del discorso della chiesa medievale, delle istituzioni medievali. In fondo io adesso nella discussione poi più tardi possiamo prendere anche questi brani delle opere di Le Bras. Lui dice in fondo dalla metà del 400 fino al Concilio di Trento noi non abbiamo nessuna produzione legislativa di livello, non abbiamo testi nuovi, insomma, ecco, non abbiamo una creazione di diritto. Questa è la tesi fondamentale di Lebrun nei prolegomeni. Ecco, è solo con la riforma cattolica, con il concilio di Trento, eccetera, che riparte una nuova età di creatività. Quindi il 400 è lì, l'età che qui vogliamo esaminare, è una specie di limbo di attesa di un nuovo ordine che verrà soltanto nel secolo successivo. Credo sia possibile anche cogliere la radice di questa interpretazione di Lebrun, a mio avviso, ecco, qui il professor Simone Ferri potrà dire qualcosa e criticare, eccetera. A mio avviso, io credo che questa interpretazione di Lebrun dipenda dalla sovravalutazione dell'aspetto normativo, della creazione delle leggi, aspetto veramente povero nel periodo che è al centro del nostro interesse, se vediamo soltanto le raccolte dei decreti conciliari o le raccolte del Bullarium Romanum, è chiaro, non c'è nulla in questa, in questa cosa, insomma. Le stravaganti sono finite, presa poco, eccetera. Ma, a mio avviso, se si cerca di mettere in primo piano i mutamenti istituzionali reali, il momento che segue la crisi conciliarista, e appunto la restaurazione papale, porta con sé una trasformazione delle strutture della cristianità talmente profonda da fare del secondo 400 un periodo di particolare intensità creativa e innovativa. Altro che stasi del tardo medioevo. Secondo me appunto la riforma e il concilio di Trento non si riferiscono alla decrepita chiesa medievale, non combattono la decrepita chiesa medievale, insomma, ma hanno interlocutore una chiesa che nell'ultimo secolo si era profondamente modificata, insomma, si era sviluppata. Con questo non voglio tagliare fuori il problema degli abusi, ecco, vorrei cercare soltanto di ristabilire un equilibrio che io credo sia stato compromesso da molta storiografia tradizionale. Per farmi comprendere accenno soltanto telegraficamente a due esempi, uno tratto dal vertice, diciamo così, della Chiesa e l'altro tratto da un problema di base. Insomma. Mi limito soltanto ad accenni. Pensiamo allo sviluppo dei concordati a partire da quello di Vienna dal 1499 in poi, nel secondo 400. Insomma. Cioè, a parte il problema dei concordati a Costanza, che hanno altre caratteristiche, ecco, noi troviamo la seconda metà del 400, secondo me, caratterizzata dallo sviluppo di una tensione concordataria che avrà poi, anche qui non è un caso di date, troverà il suo culmine nel 1516 col concordato tra Leone X e Francesco I per la Francia, e siamo l'anno prima appunto della ribellione luterana, e quindi è e poi è il periodo delle nunziature permanenti, dello sviluppo delle nunziature permanenti, periodo dello sviluppo dei protettorati delle nazioni, eccetera, eccetera. E ecco, io credo che dietro questo ci sia, adesso ne ho parlato altrove più ampiamente, quindi qui mi limito soltanto a un accenno, poi si può rinviare alle cose che ho scritto in altra sede, insomma, ecco. Secondo me questo implica proprio una trasformazione del rapporto, dello statuto, dello status delle chiese locali all'interno della cristianità e dei rapporti tra il papato e il potere politico. Una trasformazione che non può non avere inciso radicalmente anche nelle soluzioni che poi saranno date con la riforma o protestante o con l'indirizzo. Altri esempi potrebbero fare per gli ordini religiosi e per tante altre cose, per i movimenti di fondo. Qui mi limitavo soltanto a fare invece un altro esempio dal basso, riportando una frase di Alberigo in un suo studio, quando dice, in uno studio che è rimasto, diciamo così, abbastanza celebre come base di una impostazione problematica dello studio delle confraternite laicali tra Medioevo e Età Moderna. Ecco, dice che nella seconda metà del 400, proprio con questa cronologia, le confraternite si avviano a diventare un'organizzazione diocesana presente in quasi tutte le parrocchie con la funzione di raccogliere l'energia del laicato intorno ai parroci e al vescovo. rappresentavo questa frase perché, secondo me, per esempio, rispetto allo statuto laicale medievale, questo rappresenta, se è vero, rappresenta una modificazione veramente radicale. Cioè, questo per dire che se queste cose sono verificate, eccetera, insomma, non si può parlare appunto dei termini tradizionali come si usa fare di questo periodo. Innumerevoli altri esempi si potrebbero forse fare, dalla riforma degli ordini mendicanti, le congregazioni, cioè, nuovi modelli riformati, ai nuovi modelli di santità. Qui il discorso sul modello di santità è importantissimo, perché in questo periodo credo che sia uno degli aspetti più innovativi e creativi, insomma, il secondo 400, almeno per quel che riguarda l'Italia, insomma, poi dopo vedremo dalla relazione ultima per la Germania. E alla nascita degli ospedali, opere assistenziali, eccetera. Ma sentiremo sui singoli punti, appunto, queste cose viste non come riforma cattolica o pre-riforma. Avete capito quello che voglio dire, insomma, il succo? Guai, secondo me, a vedere come problema di pre-riforma, o se no si rischia di non capire niente. Questa è la mia convinzione, dopo parecchi anni, sono arrivato adesso, non è che prima, poi può darsi che non veda chiaro nemmeno adesso, però mi sembra veramente di essere arrivato a vedere le cose in un modo almeno diverso da quanto io le vedevo nel periodo negli anni precedenti. Sul piano generale mi azzardo a proporre qui alla nostra discussione, provocatoriamente, concludendo insomma questa, l'ipotesi che intorno alla metà del 400 i rapporti di potere all'interno della cristianità si avviano verso nuovi equilibri che approderanno alle più diverse soluzioni, ma con radice comune che va bene al di là di ogni problematica relativa agli abusi o alle proriforme, eccetera. Sono già in gestazione le moderne chiese territoriali, dico gestazione, insomma. Si è avviato quel processo di disciplinamento socio-religioso che porterà e troverà poi nella confessionalizzazione dell'età dell'assolutismo il suo compimento. Questo direi è la tesi che pongo alla vostra discussione a questo proposito. A me sembra così, insomma, che ci possa essere del vero, ecco. Non so poi se sono giusto. Quindi c'è questo trend, insomma, già abbastanza deciso, anche se i termini naturalmente ancora in bozzolo, ancora appunto in gestazione e non in come creatura completa. Naturalmente in questo processo andrebbero considerati altri fatti del secondo 400 che hanno anch'essi valenze istituzionali strutturali. Alcuni di questi fatti verranno fuori certamente nel nostro seminario, ma purtroppo molto spesso rimarranno sempre nell'ombra per motivi di impossibilità ad affrontare tutte le tematiche, naturalmente. Ecco, la invenzione e la diffusione della stampa e del libro, tipico appunto del secondo 400, le nuove forme di controllo, l'affermazione delle lingue nazionali, il nuovo rapporto tra le università e gli intellettuali in genere, il potere politico, eccetera. E anche il quadro economico, lo sviluppo della grande finanza internazionale, il recupero, per esempio, mi sembra interessante, metto come, anche qui come elemento di discussione, scusate la sconnessione qui, ma lo scopo dell'introduzione è solo di porre problemi, non di fare panorami completi. La proprietà ecclesiastica, per esempio, in Italia, anche qui, almeno in alcune zone soltanto dell'Italia, ma tra 4 e 500 si è consolidata, mentre invece la tesi tradizionale è che, assaggio di cipolle, eccetera, che ci fosse stato il disfacimento della proprietà ecclesiastica trascinato più avanti fino al recupero della controriforma. Semplifico, ma più o meno, insomma, ecco, il quadro tradizionale era un po' questo, insomma, ecco. Invece, credo che dagli studi recenti della Zarri, insomma, ecco, che è qui con noi, ecco, è uscito anche proprio nei giorni scorsi su Ricerche Storiche un articolo di Pallanti sulla proprietà della Chiesa e degli enti in Firenze, è contato dai primi del Cinquecento alla fine del Seicento, che proprio esplicitamente pone l'accento su questa ripresa della proprietà ecclesiastica alla fine del Quattrocento, insomma, i primi del Cinquecento. Lazzari può parlare di tutto lo studio enorme che ha fatto, dove si è andato a finire? Come al solito si nasconde. Ecco, su Carpi, ecco, che è uno studio credo esemplare da questo punto di vista, sulla proprietà ecclesiastica a Carpi, che mi sembra fondamentale. Insomma, per questo. Questo è un esempio per dire, signori, le cose forse stanno un po' diversamente da come in genere. E questo grazie a questi nuovi studi, no? Ecco, su tutt'altro piano, e qui faccio un esempio che può apparire strano, anche la diffusione dei Monti di Pietà, mi è capitato quest'anno di metterci sopra gli occhi a questo problema, insomma, che dal 1462 al 1515 in Italia si fondino 87 Monti di Pietà, con giri di capitale enormi, insomma, che coinvolgono tutta la borghesia cittadina intorno alla Chiesa, è una cosa che non ha solo una valenza economica, ecco, ha una valenza etica ed ha una valenza religiosa anche, come struttura di è anche abbastanza interessante che appunto di questi 88 monti, 87 fossero in Italia, diciamo pure l'Italia centro-nord, perché l'Italia del sud non vive questo tipo di almeno tipo con il professor Vito lo faremo qualcosa, ecco, ma i Monti di Pietà nascono soltanto più tardi nell'Italia meridionale, qui sono un fenomeno più legato probabilmente alle esperienze comunali, eccetera. Ma anche su questo sono due accenni così diversi, quello della proprietà ecclesiastica, quello dei Monti di Pietà, se voi ne potete tirare fuori altri 10 migliori probabilmente. Ecco, è solo per dire come, per dare alcuni esempi di come in realtà la vitalità e i tipi di sviluppo interni, la dinamica delle strutture ecclesiastiche nel secondo Quattrocento, nei primi decenni del Cinquecento, ha una sua forza propria che va studiata per se stessa in un quadro socio-economico ad evoluzione rapidissima. Sono ben convinto anch'io che queste generalizzazioni non hanno alcun significato tranne quello di provocare la discussione. Tutti questi fenomeni vanno scomposti e considerati nelle singole realtà regionali e locali. Di qui l'interesse per un confronto comparativo come il nostro, nel quale non si vuole presentare un quadro completo, ma soltanto alcuni sondaggi nei due diversi contesti italiano e germanico. Ecco, sottolineo, forse qui farei meglio a parlare come segretario che non come coordinatore, ecco, questi seminari non hanno nessuna volontà di completezza, ecco, ma servono solo a dei sondaggi, anzi, diciamo così, che detesteremmo le sintesi, insomma, ecco, ma vorremmo invece questo tipo di quadro, un confronto comparativo, ecco, non storia comparata, questo non arriverei mai a dirlo, insomma, ecco, ma confronto comparativo di situazioni concrete. E con ciò sono giunto a dire qualche parola sull'ultimo punto del titolo del seminario, cioè in Italia e in Germania. Io faccio proprio l'analisi testuale del titolo, ecco. Non si tratta soltanto di una concessione formale alla finalità del nostro istituto, a mio avviso, né si vuole riproporre la questione inutile in questi termini del perché la riforma si sia sviluppata in Germania e non in Italia, eccetera, eccetera. Anche se alla fine di questa settimana vorremmo certamente sapere qualcosa di più anche su quella divaricazione che probabilmente si accentua in questo periodo tra le due aree, è anche il problema della divaricazione, un problema interessante, che va in ogni caso storicizzato, e non so se abbiamo ancora tutti gli elementi di questa, anzi non credo che li abbiamo, insomma, di questa analisi, ma è solo un, così, una cosa che butto lì, appunto, più a fiuto che altro, cioè dalla metà del 400, mi pare che la divaricazione tra il mondo tedesco e quello italiano vada crescendo man mano, e non sia solo riconducibile all'esplosione della riforma. Va detto preliminarmente che la nota mancanza di studi sulla Chiesa italiana in generale e in particolare per il periodo qui considerato ci impediscono ogni pretesa di presentare appunto risultati definitivi, e non ci dobbiamo illudere, e da parte mia meno che meno, cioè, come ha dimostrato credo anche il professor Denisei, ecco, all'inizio del suo volume sulla Chiesa in Italia, perché poi non so perché ha tradotto la Chiesa nell'Italia rinascimentale, mentre il titolo è The Church in Italy in the 15th century, ecco, gli inglesi sono sempre più più empirici anche nei loro titoli, insomma. Invece qui in Italia dobbiamo sempre trasformare, quindi non la Chiesa nell'Italia del 400, ma la Chiesa nell'Italia rinascimentale, il che è diverso e credo sbagliato, insomma, non è una traduzione secondo me esatta. Ad ogni modo, ovviamente qui entro quello che ho detto prima, cioè l'assenza del professor Hay ci impedisse di discutere con lui tante cose, insomma. Ma all'inizio del suo volume lui dice appunto questa mancanza di studi sulla storia della Chiesa in Italia. Ma non è senza senso, credo per il nostro tema, che l'Italia non sia nemmeno citata nella bibliografia relativa alle chiese nazionali che c'è in fondo ai prolegomeni di Lebrun che ho citato prima. Cioè, in questa introduzione di Lebrun alla sua Histoire des Institutions, quando fa la bibliografia delle chiese nazionali, c'è la Danimarca, la Svizzera, Portogallo, cioè, l'Italia non c'è. Ecco, non è probabilmente senza senso, ecco, questo tipo di carenza, anche se Lebrun quando faceva le bibliografie era, diciamo, approssimativo, diciamo, ecco, aveva tante doti, ecco, non era granché preciso, ma però è importante questo. Non basta certo il basso livello degli studi storico-ecclesiastici del nostro paese a spiegare questo fenomeno. La presenza, ecco, e Denis Hay mette un po' l'accento su questa debolezza storiografica italiana. Il problema è che anche qui è da porre un po', non ho accennato all'inizio stesso del mio discorso, il problema è che la presenza così forte e ingombrante del papato e della curia romana è certamente la ragione, una delle principali ragioni di questa mancanza di identità. È logico, insomma, ecco, cioè non è solo un problema storiografico, ma è un problema storico, se mi si permette il gioco di parole o quasi, ecco. Non solo sul piano, insomma, la carenza è sia sul piano storico che su quello storiografico, sostanzialmente, della Chiesa italiana. Proprio per questo, però, può essere ancora più interessante proporre ora lo studio dell'Italia dell'età moderna come una specie di zona grigia in cui la giurisdizione e il governo del Papa e della Curia si esercitano in modo diverso rispetto alle altre regioni della cristianità. Ecco, e questo è un altro problema che si può discutere, insomma, come e in che modo questo possa essere vero, insomma, ecco. La mia convinzione, che ho cercato di sviluppare in altra sede, è che il periodo qui considerato, sempre seconda metà 400, primi anni del 500, sia particolarmente importante per lo sviluppo di questa sovranità limitata della Chiesa italiana in rapporto alla figura politica e religiosa del sovrano pontefice. Cioè, parlo di sovranità limitata, se si può dire questo per le chiese locali, ma insomma, per capirci, insomma, ecco. Io credo che lo statuto della chiesa, delle chiese italiane, è sempre meglio usare, credo, il plurale, anche se qui uso il singolare per facilità, sia certamente dal punto di vista delle istituzioni, del diritto canonico e della giurisdizione concreta della curia sia diversa da quella delle altre zone delle cristianità. Anche se il corpus era uguale per tutti, la realtà era diversa. Una rilettura del Sarpi, a mio avviso, il Sarpi degli scritti giurisdizionalistici, del trattato sui benefici, sulla giurisdizione, i pareri vari per la Repubblica di Venezia, eccetera, credo che è utile, anche quello delle lettere, può essere utile per capire questo tipo di evoluzione. Io dico non tanto la storia del Concilio di Trento, in quanto nella storia del Concilio di Trento, a mio avviso, il Sarpi è portato ad accentuare l'elemento, diciamo così, eversivo del Concilio, il momento eversivo rispetto alla Chiesa medievale, mentre in altri scritti mi pare che il problema di questo tipo di continuità nella trasformazione istituzionale del papato totato, come dice lui, da Gregorio VII in poi, eccetera, abbia una sua più completa, insomma, ecco, espressione. La lettura di Sarpi, di questo Sarpi, credo che possa essere utile ancora per cogliere questa dinamica istituzionale ecclesiastica propria dell'Italia tra Medioevo ed Età Moderna. Ma esistono anche alcuni fattori di ordine generale e politico che rendono interessante l'esame del caso italiano in questo periodo storico. Anzitutto la marginalizzazione della ormai angustissima Italia. A me è una cosa che ha colpito moltissimo all'inizio del Libellus ad Leonem X di Querini e Giustiniani. Dice: tu, Papa, verum tu certe omnibus melius sentis, pater beatissime, qualis tibi ad homino commissa provincia fuerit, non enim angustissime uius Italiae modo, autetiam non satis late Europae solum, eccetera. Cioè, non è soltanto, certo, c'è la tensione di questi due verso le scoperte, le nuove espansioni dell'Europa nel mondo, questo senso, insomma, di un'Europa che si estende. Ricordiamo appunto che siamo nel 1512-13, insomma, e quindi abbiamo appunto la prima ondata delle grandi scoperte alle spalle. Ecco, però secondo me c'è qualcosa di più in questa definizione dell'angustissima Italia. Ecco, una frase del genere nel Medioevo era impensabile, era assurda, era una cosa appunto impensabile, secondo me, insomma, un'espressione del genere, insomma. E anche questo, secondo me, è importante, insomma. Ecco, come è importante anche una diminuzione del ruolo dell'Italia che, appunto, a mio avviso, non è soltanto legata alle guerre d'Italia. Questo è un fenomeno più noto, più conosciuto, nel senso che, però, è bene non dimenticare, insomma, che quegli anni di cui parliamo sono anche poi gli anni in cui si aprono le guerre d'Italia, in questo. Ma è legata a qualcosa di più, insomma, a un panorama rispetto ai vecchi e nuovi mondi che cominciano a essere esplorati e conosciuti. Accanto a questa marginalizzazione dell'Italia, quindi, e non in contrasto con essa, sta il fatto, però questo è un altro problema, che l'Italia del 400 ha anticipato o eguagliato gli altri paesi d'Europa più avanzati nello sviluppo di nuove forme di rapporto tra potere politico e vita religiosa. Ecco, cioè troviamo da una parte la marginalizzazione dell'Italia, dall'altra un paese che in qualche modo in vitro ha sviluppato certi tipi istituzionali di rapporto tra politica e religione, tra Stato e Chiesa, se vogliamo usare questi termini, in qualche modo anticipando spesso movimenti d'oltrampo. Ecco, qui le citazioni possono essere lunghe, ecco, io credo che sia molto importante il libro che Prosdocimi, il professor Prosdocimi, sempre che ho già citato prima, è qui con noi, ha scritto, ha pubblicato addirittura nel 1941 sul diritto ecclesiastico dello Stato di Milano, dall'inizio della signoria Viscontea al periodo tridentino. Ci ha tenuto molto con noi il professor Prosdocimi proprio perché ha posto con questo libro, secondo me, una problematica, questa problematica in modo estremamente interessante in anni ormai lontani, diciamo così, ecco, ma proprio per questo appunto con una... vorrei anche sottoporre a discussione il titolo stesso, che secondo me è molto rivelatore, il diritto ecclesiastico, non canonico, no? Il diritto ecclesiastico dello Stato di Milano, questo è importante, E credo che solo sul titolo del libro di Prosdocimi si potrebbe discutere una giornata, naturalmente in rapporto al contenuto. Ecco. Adesso, Kirchenrecht e diritto canonico e diritto ecclesiastico, was haben Sie für... Wir haben keine Unterscheidung. Scusa Prodi. È quello dello Stato di Milano. Questo è il problema. Il diritto dello Stato e le normative statuali. Ecco, qui ci troviamo a Kirchenrecht. Qui bisognerebbe. Non è Kirchenrecht, questo. Sì, plus publicum ecclesiastum, das ist nicht Staatskirchenrecht. Staatskirchenrecht, ja. Kanonisches Recht wäre unsere. Die Verschiedung ist zwischen Staatskirchenrecht und kanonischem Recht, nicht das ungefähr. Grosso modo è questa. Ecco, ma questo è molto interessante anche metodologicamente da discutere. Cioè, io credo che effettivamente, ecco, parlare di diritto ecclesiastico per il 400 è una cosa grossa, Io ci credo, cioè credo che sia giusto, insomma, che tu abbia colto nel segno, ma certamente è forse per gli amici tedeschi, anche questi problemi terminologici poi sono molto interessanti, insomma, ecco, non hanno la nostra distinzione tra diritto canonico e diritto ecclesiastico, ma sostanzialmente però ci si può spiegare anche nella discussione in questi termini. E recentemente voglio ricordare anche lo studio di Chitolini, Giorgio Chitolini, che pure è qui presente tra di noi, e voglio ringraziare esplicitamente. Dove si è nascosto? Ecco, conoscerete poi tutti nei prossimi giorni. Ecco, il suo studio, che ritengo per questo punto, ecco, molto bello, interessante, Forme tecniche del potere nella città, in analisi della Facoltà di Scienze Politiche. E poi c'è un altro studio della Zarri, che purtroppo non è ancora stampato, quando viene fuori? Ecco, ad ogni modo uno studio della Zarri su Urbino, sul Ducato d'Urbino, sul rapporto tra politica e religione con Federico da Montefeltro, che a mio avviso è molto bello e sarà molto bello quando sarà poi letto, ma è in Druck. Ecco, questo per dire che appunto io ritengo molto importante questo, il problema del rapporto tra lo Stato e le strutture ecclesiastiche, l'evoluzione nel secondo 400, insomma, ecco, è molto importante proprio per capire. Insieme studio ecclesiastico. Non si tratta, a mio avviso, come ha affermato Romeo De Maio, già nel suo libro su Savonarola e la Curia Romana, in una citazione che poi è stata ripresa da Denis Hay, di piccoli cesaropapismi degli stati italiani. Io forse con De Maio abbondo sempre in polemica perché non vado d'accordo con nulla di quello che dice, ma ecco, non è un problema di piccoli cesaropapismi, il problema è di precise forme di intervento e di controllo, insomma, che preludono in modo tangibile alla formazione delle chiese territoriali, secondo me. Quindi la frase genopapismo secondo me è ambigua, astorica, viene usata in tutti i sensi, cioè genopapismo, insomma, e qui bisogna capire come si formano concretamente, insomma, ecco, i nuovi rapporti di potere, insomma, ecco. E ho quasi finito, sono stato più lungo di quello che pensavo. Probabilmente abbiamo fatto bene alla giornata di oggi a allungarla al pomeriggio, perché sennò diventava un po' pesante. Insomma, ecco. Interessante sarebbe anche estendere l'analisi comparativa sulla disciplina del clero dei laici tra Italia e Germania, ma qui veramente io ne so molto poco. Il citato su Libellus ad Leonem Decimum consiglia a tutte le diocesi la prassi già in uso in Germania sulle condizioni di moralità, età, cultura, sicurezza di rendita necessarie per la missione agli ordini sacri. Il quadro della Germania appariva a questi due monaci nel 1513 molto più disciplinato rispetto al disordine e all'immoralità imperanti in Italia. È solo un accenno, insomma, ecco, ma c'è questa frase «Quod in Germaniae partibus fieri solitum est». Cioè, in fondo si dice, si cerca di dire in Italia fate certe cose, insomma, disciplina dei concorsi per la miseria, che in Germania esistono già. Quindi c'è solo questo accenno, anche lo metto lì, per una discussione, ma non sono in grado di andare più avanti, insomma, ecco. In complesso, i progetti di riforma elaborati in questi anni presentano un quadro abbastanza omogeneo per tutta la cristianità europea e non presentano elementi di differenziazione che ci possono derivare soltanto da analisi puntuali ancora da compiere. Né i vari progetti di riforma della Curia, eccetera, a cui accennai, hanno qualcosa di da quello del Cusano a Pio II, a quello di Alessandro VI, dopo la morte dei figli, eccetera, nessuno di questi progetti del secondo 400 ha, credo, ecco, mi sembra dalla lettura, un rilievo particolare per la Chiesa italiana, insomma, sono più cose per il funzionamento dei dipartimenti della Curia che non per la Chiesa italiana. Come più volte detto, questi accenni introduttivi hanno solo avuto lo scopo di provocare la discussione, senza alcuna pretesa di organicità e completezza. Un ultimo punto da chiarire, che può essere ovvio che, per noi italiani, ma non allo stesso modo per gli amici tedeschi, ma l'ho già accennato prima, è che non esiste un'unica Italia, ma esistono più Italie, molto diverse tra loro, l'Italia meridionale insulare, l'Italia dello Stato papale, l'Italia delle signorie del Nord. E anche all'interno di queste ampie zone il panorama si presenta variegato e complesso. Le strutture della Chiesa Veneta hanno ad esempio peculiarità di lunga durata che le distinguono dalle chiese delle regioni confinanti, e non su punti secondari ma su punti centrali, direi, della disciplina ecclesiastica, della vita cristiana e sociale, e sociale proprio nel senso di organizzazione. Se nei giorni prossimi affronteremo soltanto alcuni aspetti, questi saranno affrontati, spero, insomma, non tanto in un quadro generico, quanto invece nelle singole situazioni. Un'ultima parola, io ho accennato solo al nome di Yedin, vorrei riprendere questo discorso, anche molto brevemente. Questo è il decimo anno appunto della fondazione dell'istituto, è stato detto prima. Yedin in fondo è stato l'uomo, non solo il primo presidente, ma insomma l'uomo con cui si è discusso per primo questa idea e che l'ha appoggiata, fatta propria e portata avanti. E questo discorso non è solo celebrativo, perché credo, almeno sul piano personale, posso dire che il mio interesse quando ero ancora studente per questi problemi è nato proprio nei suoi primi passi dalla lettura del primo volume della storia del Concilio di Trento, che appunto nel suo libro primo, questo primo volume ha un libro primo che, come voi sapete, è questo titolo, Concilio e Riforme dal Concilio di Basilea al Quinto Concilio Lateranense, che che appunto tratta un po' il nostro periodo. E dopo aver letto, dopo, il nostro rapporto è continuato dagli anni 52-53 fino alla sua morte. Non è il caso qui di parlare di Yedin, l'abbiamo più che commemorato, abbiamo fatto un intero convegno sulla sua opera storiografica 2 anni fa, dopo la sua morte, immediatamente 3 anni fa, nel novembre dell'80. E non è qui la sede appunto per riprendere i problemi metodologici e storiografici che abbiamo ricordato in questa sede. E voglio solo dire che ritengo che tra le idee forza che egli ci ha trasmesso sia proprio questo senso delle istituzioni e la coscienza del rapporto tra il divenire interno della Chiesa e le forze storiche di ogni tempo. Ricordo appunto il titolo che voglio dare all'ultimo seminario da lui organizzato qui, il Concilio di Trento come crocevia della politica europea, che era proprio una cosa su cui lui insisteva per fa capire questo tipo di vita della Chiesa, diciamo così, non aerea, ma all'interno, insomma, di un certo discorso storico. Proprio per questo credo che possiamo andare più avanti, in fondo, e porre in discussione anche certi concetti o schemi storiografici che alcuni decenni fa non erano né discussi né discutibili. Appunto c'è nato prima il problema della cosiddetta pre-riforma, questi tipi di rapporti tra riforma, riforma cattolica e contro riforma, insomma, alla luce degli apporti derivati dalle nuove metodologie, delle nuove conoscenze e della nuova sensibilità. Ora infatti, più che non quando Yedin scriveva il primo volume della sua storia del Concilio di Trento, o i saggi sui progetti e tentativi di riforma pretidentini, siamo in grado di capire meglio il tramonto di alcune strutture secolari. Siamo in grado di capire meglio un certo rapporto tra cristianesimo e politica, in profondità molto maggiore che non nel tradizionale rapporto Chiesa-Stato, come si diceva fino a qualche tempo fa. Forse possiamo vedere proprio per questo più chiaramente il problema delle radici, il momento di formazione delle strutture che hanno poi dominato la società civile e religiosa dell'Occidente negli ultimi secoli. Non si tratta naturalmente di applicare in modo astorico schemi nostri al passato, ma semplicemente di essere in quanto storici uomini del nostro tempo. Grazie, scusate. Ecco, allora prendiamo la discussione. Sì. Cominciamo la discussione. Sì. Abbiamo ancora un momento. No, la discussione della della relazione o della esposizione del professor Prodi. Wer bricht das Eis? Und stellt die erste Frage, Frau Kollegin Weiß. Ja, wie ich schon so ausgeführt habe, habe ich ja meine erste Arbeit mit dem Untertitel versehen, Strukturanalyse. Weil das war gerade vor 100 Jahren war. Und ich wollte aufzeigen, das innere Gefüge der Kirche und so weiter für einen speziellen Bereich. Und da habe ich natürlich gesehen, wie schwierig das ist, aus den äußeren Formen zu erkennen, wie eigentlich es innen zugeht. Und man kann das vergleichen mit einem Skelett. Also die Struktur ist meiner Meinung nach in etwa das, was bei einem Menschen das Skelett ist, der innere Aufbau. Und alles andere, das Fleisch und so weiter, ist das, was sozusagen bei jedem anders ist. Man muss aber das Innere erkennen. Und da habe ich endlich mich angemeldet, nach dem Titel, der mir also sofort sehr sympathisch war, und war dann ein bisschen überrascht über das, was eigentlich ich zu erwarten glaube, dass eigentlich nicht so sehr die Strukturen aufgezeigt werden, sozusagen eher das Äußere. Jetzt hoffe ich, dass ich mich da irre und wir doch das innere Wesen ergründen können mit den Machtverhältnissen und den gegenseitigen Beeinflussungen, der Wechselwirkung zwischen den einzelnen Institutionen der Kirche in diesem entsprechenden Bereich. Obwohl ich dazu sagen muss, ich kann nur sprechen für die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts. Es ist von den Quellen her sehr, sehr schwierig, das auch zu zeigen. zeigen, aber es ist natürlich jetzt ein Anstoß insofern gegeben, als man sich jetzt eher dafür interessiert, wie hat es im Allgemeinen sozusagen an der Basis ausgesehen, wenn man früher sich dafür interessiert hat, wie geht es von oben nach unten. Und da wollte ich nur sagen, ich bin sehr gespannt, was ich da lernen werde. Und ich ziehe dann meine Rückschlüsse auf die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts, die hier offenbar nicht behandelt wird. Und da bin ich wirklich neugierig, was da herauskommt. Ob sich das bewahrheitet, was ich für die erste Hälfte sozusagen nur für einen kleinen Teil des damaligen Reiches, also im Speziellen noch Österreich, Süddeutschland, erforscht habe, wenn ich das so großspurig sagen kann, und dem, was an sich offenbar in der zweiten Hälfte sich grundlegend wandelt. Und ob sich da wirklich ein grundlegender Wandel abgezeichnet hat, das wäre für mich also eine Überraschung, aber lass mich da gerne überraschen. Volete una breve, un breve riassunto? In italiano? Siccome ci sei è meglio. Sì. La dottoressa Vessa ha detto che lei aveva dato ai suoi studi il titolo un'analisi di struttura e per quello è stato specialmente affascinato dal tema, dal titolo di questo seminario, perché lei considera la struttura come lo scheletro che c'è in ogni uomo, che più o meno simile, mentre poi tutte le altre cose esterne siano poi la carne, la pelle, eccetera. Adesso è un po' sorpresa perché ha l'impressione dall'esposizione di stamattina che qui ci sia più interesse per la carne e la pelle che non per lo scheletro. Però le interessa anzitutto questa come una cosa, come queste due sfere si influenzano una sull'altra e lei si è occupato soltanto della prima metà del 400 e adesso è curiosa se veramente nella seconda metà del 400 sia avvenuto un cambiamento nelle strutture, veramente. Sie müssen dann korrigieren, wenn ich was falsch sage. Se questo cambiamento sia veramente stato, e questo naturalmente è interessante per i suoi studi che si sono limitati naturalmente non solo sulla prima metà del 400 ma anche su un'area piuttosto ristretta, cioè Austria e Germania meridionale, Salisburgo anzitutto, perciò questo sarebbe per lei molto interessante. Ist richtig. Ja. Rispondo di volta in volta, nicht? Ja, wie du willst, come vuoi tu, tu sei il coordinatore. Quindi il problema, appunto, si entra nell'equivoco del problema della parola struttura. Io ho detto stamattina che è una parola equivoca per natura sua, insomma. Già con Gar, per esempio, in quella pagina di Vrai fosse reform dall'Eglise che citavo prima, usa due volte il termine, parla di struttura, una volta al singolare, per identificare, diciamo così, quello che lei chiamerebbe lo scheletro, forse, ad ogni modo le parti, diciamo così, i più fisse o meno mobili o in qualche modo più rigide, del corpo della Chiesa, e poi parla di strutture storiche invece per dire quello che appunto vogliamo dire noi in qualche modo. Credo che appunto questo sia una testimonianza di come bisogna usare con cautela e con molta riserva questi termini, almeno da parte mia. Quello che interessa come storici, a mio avviso, è proprio le strutture, sono le strutture al plurale, proprio intesi in questa loro dinamica, in questa loro, nel loro mutamento, sostanzialmente, perché come storici è, secondo me, al mutamento che siamo interessati. Ecco. E questo, così, grosso modo, la risposta alla prima domanda, ecco, con tutte le riserve, appunto, che si possono fare sull'uso di queste parole. Il secondo punto mi pare sia quello di mettere in discussione il mutamento delle strutture a metà del 400, no? Cioè, se è venuto un cambiamento. Ecco. Io non vorrei aver dato l'impressione, certamente, di aver sostituito ad una periodizzazione, un'altra periodizzazione, non era questa la mia intenzione, ecco. Non era la mia, andere per periodisierung zu Bauer, zu Brunnen. Credo però che l'esaurimento del movimento conciliare e il cosiddetto solstizio del papato, come è stato definito, mi pare, da Uriac, se ricordo bene, in altri studi, insomma, per indicare questo punto di unità del 400, possa avere una sua utilità dal punto di vista di una revisione, appunto, delle periodizzazioni sinatura accettabili. Io credo che per molte strutture, se vogliamo usare questa parola al plurale, sia facile trovare nella prima metà del 400 e ancora prima degli elementi necessari e di sviluppo per la loro comprensione più tarda, ecco. E quindi che non sia possibile, ovviamente, prendere questa data, che è una data, diciamo, come tutte le date, più valide per i vertici che non per la base dell'edificio, sempre, no? Perché le date si fissano bene quando toccano i vertici, ecco. Quando muoiono i re. Sono molto evidentemente più discutibili e quasi impossibili per la base, però riterrei lo stesso, in ogni caso, abbastanza significativo. Ecco. Relativizzando però, perché secondo me, come un po' accennavo stamattina, io credo che queste periodizzazioni, anche nello spazio e nel tempo, nello spazio valgono moltissimo, insomma, perché credo che per la Germania e per l'Italia i problemi di periodizzazione siano del tutto diversi, ed è quello che dovremmo mettere a confronto in questi giorni. Professor Brostocevi. Io vorrei toccare due punti. Il primo è appunto quello della terminologia di strutture e istituzioni, e su questo punto avrei qualche dissenso con l'amico Prodi, perché direi che, a parte il possibile equivoco dell'uso della parola strutture, che potrebbe richiamare lo strutturalismo, che credo non sia però nelle intenzioni di Prodi di evocare, mi sembra che il timore che la parola istituzione, e io aggiungerei anche quella di ordinamento, ma in ogni caso che la parola istituzione sia troppo rigida, sia troppo, non permetta di arrivare a un allargamento e a una flessibilità nell'affrontare tematiche mobili e anche non consolidate, non ossificate, visto che si è fatto il richiamo allo scheletro e alle ossa. Mi sembra che non ci sia, perché la parola istituzione è una parola estremamente larga e possibilista, e quindi può dare luogo a un allargamento. E qui vorrei ricordare qualche affermazione di alcuni storici, ma anche filosofi del diritto che hanno affrontato questi temi, sia storici francesi, sia storici italiani, per quello che io so, dove si è arrivati all'affermazione che istituzione e anche ordinamento, la parola ordinamento dovrei dire che è difficile da tradurre, è una parola tipicamente italiana nel gergo anche giuridico. I francesi credo non abbiano un termine simile da proporre, e non so, vorrei sapere se il mondo germanico, di lingua germanica, ha una parola come Ordnung che significa qualcosa di simile, ho dei dubbi. Sì, ma evidentemente nel plurale. La parola ordinamento è venuta specialmente dall'apporto e dagli studi di quel costituzionalista e internazionalista nostro, grande, che è stato, è vero, Santi Romano, che ha mandato avanti gli studi, l'interpretazione istituzionalistica del diritto di fronte a quella normativistica, per esempio, di Kelsen, di Hans Kelsen. E ecco, ma dicevo, questi teorici dell'istituzione e anche dell'ordinamento sono arrivati a almeno uno, che io sappia, sono arrivati ad affermare che esistono istituzioni o ordinamenti allo stato gassoso, cioè anche uno stadio dove gli spettatori partecipano a una partita di calcio può essere un'istituzione allo stadio gassoso che dura 3 ore come la partita, ma che in quel momento esiste. Quindi questo esempio limite lo adduco e lo ricordo perché potrebbe essere un invito e un incoraggiamento a non diffidare di questi termini che possono aver avuto delle restrizioni in alcuni giuristi, ma che adesso, anche perché per l'apporto storico e per tante ragioni, si sono dilatati, e quindi non abbiamo paura, caro Prodi, di parlare di istituzioni. Non, certamente potremmo farci star dentro e gli aspetti sacramentali, come dicevi, e io direi anche gli aspetti, diciamo pure popolari, della vita religiosa, proprio perché potrebbero essere assimilati a quelli sportivi di una comunità, di incontri, di manifestazioni e di convergenze anche labili e momentanee. Ecco, questo per quanto eventualmente, se occorrerà, torneremo su questi temi giorni, perché credo che sia molto interessante. Poi vorrei dare un piccolo apporto a quanto la dottoressa Weiss ha chiesto e ha detto, e direi la mia esperienza dell'area lombarda o milanese mi farebbe dire che nella seconda metà del 400 e nei primi decenni del 500 noi assistiamo ad un crollo o una inefficienza del mondo ecclesiastico, specialmente della gerarchia, e invece a una vitalità notevolissima degli interventi laicali, delle iniziative laiche in campo religioso, sia di iniziative a livello di governanti, i duchi di Milano, ma direi ancora di più a livello di popolo, o a livello di ceti popolari o borghesi, perché Milano ci presenta in questa fase anzitutto una reviviscenza del culto mariano con la nascita di santuari e di iniziative specialmente mariane, per cui si creano chiese santuario, magari accanto alla chiesa antica, per iniziativa di gruppi di laici che si riuniscano in confraternite o anche, come si dice, fabbriche, vale a dire confraternite o comitati che vogliono fabbricare e mantenere queste chiese santuario, come ci sono appunto iniziative invece anche ducali in questo senso, non faccio nomi perché non è qui il caso, e in ogni caso c'è una vitalità da studiare ancora estremamente viva e operante di coscienza religiosa laicale di fronte proprio alla inefficienza, per non residenza o per caduta di altro genere, della gerarchia. I vescovi non risiedono, i vicari forse si dimenticano di essere tali, e lo stesso clero è, forse il clero specialmente alto, non funziona. E allora ecco che c'è questa compensazione laicale che veramente è ammirevole e che credo vada ancora molto studiata, almeno per l'area che io conosco. Grazie, io raccolgo come integrazioni, ecco, non è che per la parola appunto struttura ho detto anch'io le molle con cui vanno prese, ecco, io, a mio avviso c'è il pericolo, cioè credo, e senza voler entrare appunto nelle teorie istituzionalista o normativista, insomma, ecco, secondo me, ecco, mi sono portato, ecco, a vederne la parola istituzioni, non appunto lo stato gassoso, ecco, ma un consolidamento che si traduce in scheletro, per usare l'espressione che è stata detta, ecco, personalmente, ecco. E quindi appunto cercavo di allargare anche terminologicamente, non certo riferendomi a strutturalismo eccetera, questi termini, però su questo dico veramente così, basta, dico, intenderci, e credo usare questi termini con l'empiria assoluta, insomma. Posso dire solo una cosa, che generalmente non sono, come ho detto, non sono uno specialista, ma che noi storici in genere, e forse noi uomini tutti, allo stato attuale nei nostri vari paesi, abbiamo un po' la paura della dominazione dei giuristi. Ci scusi, c'è questa pietrificazione, appunto, questa cosa dura, e specialmente per noi storici che vediamo che tutto è fluida e tutto, abbiamo paura di queste chiare distinzioni, di questo irrigidamento, di questa pietrificazione che ci portano i giuristi. E credo, scusate, che qui nel pensiero di Paolo c'è proprio questa paura di questa pietrificazione o ossificazione, come ha detto la dottoressa Vesi. Se posso aggiungere, io vengo dalla settimana della Mendola, dove abbiamo dibattuto proprio su un tema storico e giuridico queste cose. Ho constatato per la ennesima volta la stessa cosa, però vorrei proprio che anche qui, come ho cercato di fare là, si venisse finalmente a una convergenza e a un'intesa tra storici e storici del diritto, tra Geschichte e Rechtsgeschichte, perché la storia del diritto senza fluidificazione si ossifica, ma dall'altra parte anche gli storici delle grandi durate, come hai ricordato tu, hanno bisogno di questi strumenti, altrimenti veramente c'è pericolo di non portare chiarezza. Quindi, se posso dire e offrire una proposta, è proprio quella: convergiamo e cerchiamo di non tenere steccati e barriere dove non ce ne devono essere. die wollten noch was sagen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe das nicht verstanden. Diese zwei so Variationen der Struktur, die er ja offenbar erwähnt hat. Ja, das waren, dass man einerseits Struktur im, ich weiß nicht, wer es war, in der Einzahl verwendet und damit eben das Starre meint, wie Sie gesagt haben, das Skelett. Und dass dann eben hier bei dem Wort Strukturen er die Vielfalt, eigentlich das Fleisch meint, das sie gemeint hatte. Und zwar, chi era stato quello che ha usato la parola? Congar, aber das ist ja Frankreich. Congar. Congar, Yves Congar. Struttura singolare. Era Yves Congar, sì, che ha usato. Ivrei fosse le fonde dell'Eglise. Sì, sì. Dass hier eben beide, beides mal, wenn er es in der Einzahl verwendet, etwas anderes ja. ist, als das, was er meint, wenn er es in der Mehrzahl verwendet. Ja, aha, danke. Altri interventi? Io volevo soltanto così richiamare un tema che mi pare già compreso nella relazione di Prodi, ma che probabilmente potrebbe aiutare se ben affrontato a leggere i mutamenti che intervengono in questo arco di tempo. Ecco, potrebbe essere una traccia di lettura. Io non voglio assolutamente essere esaustivo, anzi proprio sarò molto molto rotto, ma era soltanto una proposta al dibattito. Ecco, mi sembra che se noi seguiamo probabilmente dal concludersi della vicenda conciliare con Basilea fino agli anni, agli albori della riforma, all'inizio della riforma, proprio le vicende che subisce l'idea conciliarista fino a agli appelli di Lutero alla convocazione di un concilio. Cioè, riusciamo a leggere i mutamenti che ha questa ipotesi, molto probabilmente questo è un filo che ci può ulteriormente aiutare a comprendere il mutamento istituzionale, a mio avviso profondo, che avviene in questi anni, in questo lasso di tempo. Cioè, da un lato abbiamo sicuramente lo sclerotizzarsi della idea conciliare. È anche sorprendente come tutto sommato sia anche abbastanza facile, mi sembra, e questa è una delle notazioni che mi sia interpretato di fare, sulla tutto sommato facilità con cui il movimento conciliare viene anche eliminato proprio dalla scena della vita della Chiesa. E la stessa vicenda umana di un Pio II, al di là della, così, di opportunismi o di fatuità della persona, ma anche di sicuri opportunismi in certe situazioni, ecco, è probabilmente testimonianza di come si cominci a ribaltare, di come cominci a perdersi il significato del movimento conciliare così come era dato prima, cioè come era dato con Costante e Basilea. Ecco, mi sembra che da un lato ci sia, dicevo, questo teleotizzarsi, tanto che diventa essenzialmente un'arma politica, si riduce sempre di più a strumento politico, sia nei vari tentativi di conciliaboli, sia quello pisano, ma anche forse ancora più eclatante per certi versi, anche mi pare, se ricordo il tentativo di Damometic, queste vicende. Ecco, d'altra parte però, ecco, c'è un permanere nel sottofondo della riflessione, ecco, l'idea del concilio come momento in cui si affrontano le grosse questioni, anche strutturali, della Chiesa. Tutti sappiamo benissimo tutta la produzione anche sull'idea del concilio, anche i primi del 500. Ecco, mi sembra se noi riusciamo a comporre probabilmente questa, da un lato, sclerotizzazione molto forte di quello che è lo strumento concilio, che diventa, dicevo, a mio avviso, sempre di più un'arma essenzialmente politica. D'altra parte, riusciamo a leggere il mutamento di un'altra ricezione del concilio, più diffusa forse, per così dire, in quell'area che noi definiamo di riforma cattolica. Ecco, e poi vediamo la reale vicenda dei concili, forse ancora meglio il Trento può essere significativo proprio del cadere istituzionale di una proposta, il caso del Lateranense V, cioè non è più una risposta adeguata anche al mutare istituzionale, una cosa che così incide proprio poco. Ecco, e giungiamo al grosso concilio invece Trento, che rappresenta forse anche già, cioè prende atto per certi versi, mi pare, proprio di questo mutamento che si è già inverato. Ecco, questa potrebbe essere una traccia che io così getto molto, ripeto, molto, molto rozzamente e proprio anche senza una riflessione precedente, ma mi parrebbe che forse potrebbe essere, ecco, verificare come nel concreto, ecco, della riflessione e della prassi, questa idea di concilio subisca e si adegui al mutamento che avviene. Iedim, qui spesso richiamato, ha un'ampia parte del primo volume, appunto, dedicata anche alla sopravvivenza dell'idea conciliare. Credo che, ecco, andrebbe approfondito anche le ipotesi di Iedim, rafforzandole, attaccandole maggiormente, ecco, ai mutamenti anche della istituzione papato, ai mutamenti che avvengono proprio nelle strutture, per tornare al tema nostro, della Chiesa. Ecco, mi limito, mi sono, scusate la confusione, forse mi volevo soltanto, così, credo, aggiungere un piccolo tema al nostro dibattito. No, è un'aggiunta, integrazione, insomma, ecco, non c'è una risposta da dare, credo anch'io questo, cioè tra Basilea e il Concilio di Trento è cambiata l'idea di concilio, insomma, questo, ecco, perché è cambiato tutto l'orizzonte ecclesiastico e politico, insomma, ecco. Io credo che in questo abbia avuto anche molta importanza proprio il mutamento politico, insomma, ecco, qui a Trento vediamo i protagonisti sono da una parte i vescovi e dall'altra gli ambasciatori delle grandi potenze, insomma, ecco. Il mondo variopinto di Costanzo e di Basileo è sfarbato, non è scomparso, insomma, ecco. E questo è importante, insomma, perché implica una trasformazione radicale della stessa idea, della stessa prassi del concilio, ecco. E la realtà europea politica. È molto, molto importante. Der, die, im zur Zeit des Trentiner Konzils, ja, ist dieser ungeheuer bunte, vielfältige Welt, das spätmittelalterliche Welt, natürlich vorbei, sind die großen Mächte, die durch ihre Botschafter hier in Trient mitspielen und eben die, sagen wir, die kleinen, eben nicht mehr, ja, aber die sind ja auch noch eine große Macht, ja, noch in gewisser Weise. Aber diese Vielfalt der kleineren politischen Instanzen, also kirchlichen und politischen Instanzen, bis hinauf zu dem tirolerischen Friedel mit der leeren Tasche, nicht, der doch da auch eine Rolle spielt auf einmal im Konzil, das ist vorbei, weil sie inzwischen eben die großen Mächte ausgebildet haben und die entscheidende Stimme haben. È giusto quello che ho detto? No, per cui anche le visioni dell'idea di concilio, insomma, per gli studi così, che sappiamo di Omale, eccetera, insomma, ecco, sono delle sopravvivenze nel vecchio, insomma, appaiono dei relitti, insomma, secondo me, ecco, perché proprio, salvo la loro importanza, sottolineata da Tierney anche nell'ultimo libro, ai fini dello sviluppo di un certo tipo di costituzionalismo, o in qualche modo, della trasposizione sul terreno secolare del principio conciliarista, ecco, ma queste sono altre derivazioni, già, insomma, in qualche modo più lontane. Darf ich nur dazu, hoffe ich langweilig Sie nicht, dazu sagen, ich bin der Meinung, dass das damit zusammenhängt, dass es von Konstanz nach Brienne eben keinen Strukturwandel gegeben hat. Und zwar auf dem Konstanzer Konzil hat man nach den Wirren des Schismas versucht, der Kirche eine neue Struktur zu geben, nämlich eine demokratischere. Also die Beseitigung der Vorherrschaft des Papstes, dadurch, dass man ihn zur Kunst sozusagen eingeladen hat, um zu versuchen, die Reform voranzutreiben, dem Papst gewisse Missbräuche abzustellen. Das hat sich dann gesteigert auf dem Konzil von Basel, wo man schon gesehen hat, dass Papst und Großmacht, also Kaiser und Papst, die Zeichen der Zeit erkannt haben und gesehen haben, mit diesen demokratischen Tendenzen geht es nicht weiter, das endet gewissermaßen in einem Chaos. Und dann zieht sich das weiter fort, es entstehen sozusagen zwei Machtblöcke, Papst und Kaiser oder die verschiedenen Könige, Nationalstaaten und so weiter. Staaten, ja. Ja. Und wo meine ich, ist in meinen Augen da kein gravierender Unterschied zwischen der ersten Hälfte und der zweiten Hälfte, denn das, was man in Konstanz und vorher in der Spätzeit des Schismas geplant hat, also eine breitere Basis für die Kirche, ein Mitspracherecht der Laien und der niederen Geistlichkeit, das hat sich als undurchführbar ergeben, weil es nämlich keine Institutionen in dem Sinn gegeben hat, wenn wir es auf die heutige Zeit als Vergleich bringen, kein Parlament. Das heißt, die Konzilien sind zwar geplant gewesen, alle 4, 10 und so weiter, 20 Jahre. Es hat sich aber gezeigt, dass da nicht viel herauskommt. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich sage es einmal so. Und es hat sich das wieder kristallisiert, was vorher war, Papst und Kaiser oder Territorialfürst. Und das, was sich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts da abgespielt hat mit den Nunzien und jetzt habe ich da vergessen, was da alles angegeben ist. Konkordate. Ja, Konkordate, das passiert alles auf Konstanz. Und ich glaube nicht. Konkordat ist erstmal in Konstanz. Oh, das sind andere Sachen, ja, für mich ja. Der Name ist das selbst, aber nicht die historische Wirkung. Aber nur, dass ich das eben sage, die Konkordate, ich glaube, dass mir da niemand widerspricht, sind erstmals in Konstanz für die verschiedenen Regionalstaaten abgeschlossen worden. Und das ist sozusagen nur in der zweiten Hälfte ist es ein bisschen verbreitet worden, aber prinzipiell meine ich, dass der Einschnitt eben Konstanz ist, die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts. Damals hat man die Weichen stellen wollen, nicht gestellt. Und das, was in der zweiten Hälfte passiert, ist sozusagen nur eine Auswirkung dieser Entwicklung. Aber damit ist es ja eben was anderes geworden. Ja, wenn es eine Auswirkung ist, dann... Das ist ja nur periphere Dinge. Es hat sich ja nichts wesentlich geändert. Ja. Dass man zum Beispiel zwischen Papst und Kaiser und den einzelnen Königen da jetzt Nunziaturen einrichtet, beweist doch, dass sich die zwei Mächte besser oder enger aneinander geschlossen haben, um die anderen, die auch mitherrschen, mitregieren wollen, auszuschließen. Ja, das verändert aber das ganze Bild. Nein. Ja, doch. Das finde ich nicht, weil die Kirche ist doch sozusagen eine Institution, die eine Spitze hat, eine kleinere Basis etwas weiter drunter und dann aber die Spitze ist sozusagen absolut. Und insofern finde ich da auch keinen Unterschied. Sie haben ja das Beispiel auch vom Kollegen Prostoncimi gehört in Mailand, nicht da, wo die Hierarchie eigentlich völlig versagt und stattdessen eine bürgerliche religiöse Bewegung, die da Kirchen baut, einrichtet und so weiter. Das ist doch eine wesentliche Veränderung gegen früher. Bitte, ich bin kein Spezialist. Ich glaube ja. Ich glaube auch. Aber wir werden in den nächsten Tagen, ja. La Diskussione non finisce qua. Aber das muss ich sagen, das war zu Beginn des 15. Jahrhunderts, da habe ich ja in meiner Arbeit, nur dass ich das zitiere sozusagen, also das Gleiche festgestellt. Es mehrt sich nur, weil das Bürgertum reich wird und Interesse hat an solchen Dingen, aber prinzipiell ist meiner Meinung nach gar kein Unterschied. Vielleicht darf ich noch ein ganz kurzes Wort dazu sagen. Wenn Sie von den Idealvorstellungen ausgehen, die in Konstanz vorgeschlagen wurden, der Reformation Sigismundi, den anderen Reformschriften und dergleichen, dann haben Sie natürlich recht, dass man diese Vorstellung nicht verwirklicht hat und dass man die Kirche grundsätzlich von den Strukturen her auch nicht geändert hat. Man hat das Papsttum nicht abgeschafft, man hat den Konziliarismus nicht durchgeführt. Aber trotzdem hat man sehr viel getan. Das ganze 15. Jahrhundert ist eine einzige Epoche bleibender und sich wandelnder Veränderungen. Auf der unteren Basis hat man die Evolution Moderna vorangetrieben, die Windesheimer Reform, Konversion, die Bursfelder Reform, oft gegen den Widerstand der alten Klöster. Man hat das Kirchenrecht verfestigt und geändert, etwa in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Es sind neue Frömmigkeitsbewegungen entstanden in Italien und so weiter, vom byzantinischen Bereich bis nach England. Es hat sich also sehr viel getan und eine ganze Menge. Und ich glaube auch an der Kurie, am Papsttum und so weiter. Natürlich auch Negatives wieder. Aber es war eine Epoche ständiger Wandlung. Nur die kirchliche Hierarchie hat man nicht abgeschafft. Die Potestas in Temporalibus ist geblieben. Das ist ganz klar. Aber sie müssen tatsächlich das als immer verbleibender Veränderungen sehen. Ich würde Ihnen aber recht geben in der starken Wertung des frühen 15. Jahrhunderts und finde, das ist ja auch in der Anleitung von Professor Prodi sehr gut herausgekommen. Er hat ja gerade, wenn ich das recht verstanden habe, versucht, diesen teleologischen Aspekt der Reformation etwas zurückzunehmen. Es liest sich ja in manchen Büchern, auch in vielen Büchern evangelischer Kirchenhistoriker in Deutschland so, als sei das ganze späte Mittelalter damit beschäftigt gewesen, die Reformation vorzubereiten oder direkt auf die Reformation zuzulaufen. Das ist ja nicht der Fall. Jede Epoche ist ja als eigenständige zu sehen. Unmittelbar zu Gott, wie Ranke gesagt hat. Genau das wollte ich gerade auch sagen. Aber so ist es, glaube ich, auch zu verstehen, das Wort Ranke ist, dass jede Epoche ihren eigenen Wert hat und nicht verglichen werden kann mit einer anderen und sich auf diese Weise relativiert. Und da würde ich Ihnen insofern recht geben, es ist hier sicher eine sehr gewichtige Angelegenheit vor sich gegangen, aber Sie können nicht sagen, dass nichts dabei herausgekommen ist. Es sind hunderterlei Dinge, die ganzen Reformbewegungen auch unter Martin dem V., der ist ja viel bedeutender, als man das immer meint, und Sie wissen das selbst viel besser als ich. Ich habe nur auf die Struktur hingewiesen. Ich habe gemeint, in der Struktur hat sich nichts geändert. Nicht prinzipiell ist in der kirchlichen Hierarchie. Ja, aber in anderen Strukturen. Nein, in anderen Strukturen schon, in der Pfarrseelsorge, in den kirchlichen Strukturen, ich werde selbst darauf zu sprechen kommen, auch im Bischofsamt, ich glaube, da hat sich schon etwas verändert, auch in den Strukturen. Nur die prinzipielle Hierarchie ist geblieben. Aber innerhalb der einzelnen Ebenen hat man, glaube ich, sehr viel Strukturveränderungen vorgenommen. Eben gerade was Bischöfe, Pfarrer, Messpriester betrifft und so weiter. Und auch was die Kurie selbst. Aber das interessiert uns ja nicht so, wie Professor Prodi sagte, weil man darüber ja doch schon sehr viel arbeitet. Aber ich glaube, das wird sich zeigen, dass sich viel getan hat. Herr Kollege Schimmelpenny. Ja, ich werde also nicht weiter diskutieren, sondern ich würde vorschlagen, dass man vielleicht doch an diesem Punkt wegkommt. Man kann natürlich mit dem 14. Jahrhundert anfangen, weil hätte Berechtigung, man kann mit der Konzilsepoche anfangen. hätte auch seine Berechtigung. Wenn man aber in die Praxis steigen will, wie es ja hier in den Referaten ja dann doch geplant ist, dann muss man ja eine... Langsamer, Tatsache, entschuldige den Italiener. Ja. Dann muss man ja eine Zäsur setzen. Und das war doch wohl auch der Sinn, dass also ungefähr Mitte des 15. Jahrhunderts und ungefähr um 1520 die Eingrenzung liegt. Ob denn man kann natürlich sagen, es gibt Stränge, die sich weiter durchziehen. Man könnte es natürlich auch mit Konstanz und Basel vergleichen, gerade weil Reformvorschläge eventuell jetzt in der neuen Epoche nur noch Papier sind oder häufig Papier. Ich würde auch das nicht so einschätzen wie Hubert Jedin, sondern das sind ja oft nur Fleißarbeiten, ja, die dann weiter gemacht werden, ohne diese große Bedeutung wie etwa vor und zur Zeit von Konstanz oder zur Zeit von Basel. Und ich glaube, da könnte man doch schon sagen, es ist vernünftig, gerade wenn man Italien und Deutschland nimmt, wo ja in Italien die Signorien ab 1450 bei der Kirche doch noch eine andere Rolle spielen als aber mal vorher, dass da eine Zäsur eingesetzt wird. Würden wir es mit Spanien vergleichen oder mit England, wäre die Zäsur vielleicht nicht so vernünftig. Aber bei Deutschland, wo ja auch dann mit dem Konkordat mit Friedrich III. Und mit den Kurfürsten und so weiter doch eine andere Situation da ist als bei den Konzilsnationskonkordaten von Konstanz, das ist ja der große Unterschied, würde ich sagen, ist die Zäsur, wie Sie es vorgeschlagen haben, Mitte des 15. Jahrhunderts, um in einer Woche überhaupt Ergebnisse zu erzielen, glaube ich, noch zu rechtfertigen. Und ich würde von daher vorschlagen, die Epocheneingrenzung vielleicht jetzt doch stehen zu lassen und ebenso, ob nur Struktur oder Strukturen. Ich glaube, es bringt uns im Augenblick nicht viel weiter. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn die Zeit das noch erbringt, am nächsten Freitag nochmal auf ähnliche, allgemeinere Themen zu sprechen zu kommen. Es fehlt ja eine Zusammenfassung hierbei. Vielleicht sollte man aber, wenn Herr Dormeyer uns das ermöglicht, doch versuchen, so eine Art Resümee zu ziehen. Und dann könnte man ja vielleicht doch nochmal darauf zu sprechen kommen, ob nun ein Unterschied festzustellen ist oder nicht. Danke. Completamente d'accordo, non c'è nessun problema. No, abbiamo tempo, credo altri 10 minuti, 10 minuti. Darf ich nur sagen, ich habe also absolut nicht die Absicht gehabt, da irgendeine Kritik anzumelden. Nur, ich wollte nur darauf hinweisen, dass man eben sozusagen einmal sagen muss, dass es früher beginnt. Und dann beschäftigt man sich nur mit der Zeit, die da im Programm steht. Da bin ich völlig Ihrer Meinung. Also das war nicht zu verstehen als Kritik am Veranstaltungsprogramm. Aber es ist bei jeder... Das ist ja etwas, was jedem Historiker passiert, dass wenn er irgendeine Zeit ins Auge fasst, dann auf einmal feststellt, halt eigentlich fängt das ja alles schon viel früher an, man muss zurückgehen. Das ist das ewige Schicksal von Historikern. Wir sollten an sich dem Fluss der Zeit folgen, oder theoretisch nehmen wir uns vor, anzufangen und dann, was wird daraus? Und es passiert dann genau umgekehrt, dass wenn wir uns eine Zeit nehmen, wir dann sagen, ja eigentlich muss ich früher, und dann gibt es das Phänomen von Leuten, Röpken zum Beispiel, der mit dem anfangen wollte mit dem päpstlichen Protest im Jahre 1648 und ist dann immer weiter zurück, bis er dann also auf einmal mitten in der Reformationsgeschichte war. Und das passiert also jedem oder passiert immer wieder in der Geschichte. Und daher ist jeder Beginn zu sagen, hier fängt es an, willkürlich, aber wir müssen es aus arbeitstechnischen Gründen natürlich machen. Ci sono altre domande? Non so, per cui la discussione dell'introduzione è sempre una cosa strana, insomma, nel senso che poi durerà. Se va bene dura tutta la settimana, se non va bene sarà ignorata durante la settimana. Se vedi che non sei ignorata. Va per conto suo, insomma, quindi continuiamo, no? Quindi, ecco. Va bene, allora possiamo concludere. Concludi tu, no, nessuna conclusione, dico concludere nel senso di finire, no? Come si dice? Sì. Ecco, abbiamo ancora 10 minuti, poi andiamo.